595 cenci, farina grammi 240, burro grammi 20, zucchero in polvere grammi 20, uova numero 2, acquavite cucchiaiate numero 1, sale un pizzico. Fate con questi ingredienti una pasta piuttosto soda, lavoratela moltissimo con le mani e lasciatela un poco in riposo, infarinata e involtata in un canovaccio. Se vi riuscisse tenera in modo da non poterla lavorare, aggiungete altra farina, tiratene una sfoglia della grossezza di uno scudo e col coltello o con la rotellina a smerli tagliatela a strisce lunghe un palmo circa e larghe due o tre dita. Fate in codeste strisce qualche incisione per ripiegarle o intrecciarle o accartocciarle onde vadano in padella, ove unto olio lardo deve galleggiare, con forme bizzarre. Spolverizzatele con zucchero a velo quando non saranno più bollenti. Basta questa dose per farne un gran piatto. Se il pane lasciato in riposo avesse fatta la crosticina, tornatelo a lavorare.